La rosa purpurea di Franco D'Assisi. E come ogni sabato siamo qui a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisi, La rosa purpurea, pronta a raccontarvi, ricordarvi e narrarvi le novità in sala. Sono tante questa settimana, sono 13 i nuovi film che sono arrivati in sala, fra quelli che escono nel centro della settimana e quelli che invece stanno popolando le sale cinematografiche del nostro weekend. Sarà una settimana anche ricca di ospiti, avremo le interviste con il cast e con il regista di Non è un paese per giovani, probabilmente la principale offerta italiana di questo weekend, da Giovanni Veronesi in poi. E poi parleremo come sempre anche di tutto il cinema che si muove fuori dal grande schermo, a partire dai musical, perché avremo Giampiero Ingrassia ospite della nostra trasmissione, che è al Teatro Manzoni di Milano con Serial Killer per Signora, un musical tratto da un film, ancora una volta. Insomma, state con noi, giocheremo insieme, come sempre, vi faremo vincere i più bei film della stagione in Blu-ray. Cominciamo con il primo film. Il primo film ci riporta in un clima che sta diventando abbastanza familiare nelle ultime stagioni, quello di una fantascienza di conquista, diciamo così, una fantascienza non tanto ambientata per forza sulla Terra, ma che vede proprio i pianeti, le astronavi, lo spazio come suo bacino naturale. Si intitola Life, non oltrepassare il limite. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Stazione a controllo. Confermiamo l'avvistamento del rover Pilgrim inviato su Marte. Lo vedo. Ti colpirà? No, invece. Sì, invece. Vieni qui. Dite alla commissione che il loro campione è sano e salvo. Che ci sia da gioire per questo salvataggio è tutto da vedere. Comunque, a questo punto, il campione che viene dal pianeta rosso è sulla Stazione Spaziale Internazionale, pronto per essere analizzato. La domanda è quella che si fa ogni scienziato: c'è vita oltre a noi? Sono 20 anni che mandiamo rover su Marte. Chissà che cosa ha trovato. Questo campione è un'unica grande cellula, sicuramente biologica. La prima prova incontrovertibile della vita extraterrestre. Finalmente sono papà. Sarà una bella lotta per l'affidamento. È bellissimo. Il primo contatto che avremo con una forma di vita extraterrestre può determinare il corso dei nostri successivi rapporti. Che questo corso non sarà pacifico lo si capisce quasi subito. La cosa, non è un caso che venga da chiamarla così, anche se nel film un concorso fra i bambini americani gli affibbia il nome di Calvin, la cosa, dicevamo, cresce e colpisce. A uno tutti gli abitanti della stazione diventano direttamente o indirettamente vittime. La posizione del campione è sconosciuta. Non sappiamo cos'è. Se dovesse arrivare sulla Terra, la vita umana sarebbe in pericolo. Siamo fuori orbita. Non so cosa potrebbe fare. La vita che conosciamo. La vita che conosciamo. Forse è da lì che dobbiamo cominciare. A parte le voci un po' folli che lo davano come prequel di Venom, film sul nemico di Spider-Man, c'è chi più sensatamente ha detto che è il nuovo Alien. Forse si potrebbe dire meglio che è troppo Alien, perché gran parte di quello che accade si ha la sensazione di averlo già visto da un'altra parte. Il confronto è impari, anche se il film ha una buona regia di Daniel Espinosa, svedese di origini cilene, scene girate in maniera originale, anche sfruttando la mancanza di direzione e dimensione obbligata che lo spazio e la stazione internazionale comportano. Questa creatura ha spazzato via Marte milioni di anni fa. Se adesso arriva sulla Terra, l'umanità sarà in pericolo. Uccidiamo quest'affare. Fa paura quando la deve fare, ha accenni splatter, è un po' horror e un po' thriller, senza esagerare mai in nessuna direzione, senza che gli attori, Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds, per citare i nomi più noti, approfondiscano mai i loro personaggi. Il protagonista è l'alieno, la cosa, Calvin, e il fatto che non sia originale neanche nel design è un ulteriore punto a sfavore. Comunque, un buon passatempo per chi ama il genere. Chiara Pizzimenti, allora, ha visto per noi Life, non oltrepassare il limite, la prima delle proposte di questa settimana. Un'occhiata anche al box office, giusto per segnalare come la vita della Bella e la Bestia stia andando al botteghino molto molto bene, con incassi infrasettimanali che sono meglio di quelli quasi dello scorso weekend, con i 10 milioni di euro di incasso ormai abbondantemente superati e con una leadership che è schiacciante rispetto a tutte le altre pellicole. È già ormai il quarto incasso dell'anno, a partire dal 1 gennaio, diventerà, come abbiamo detto anche settimana scorsa presentandolo, sicuramente il primo, bisogna vedere a quale livello. Adesso noi diamo la linea alla viabilità, sentiamo come vanno le cose sulle strade, perché fra poco ci tuffiamo anche in un'atmosfera di grande qualità con un film davvero molto molto interessante. Si intitola Elle, troveremo con noi a raccontarcelo Boris Sollazzo fra poco. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea si sposta in campo francese per il prossimo film di cui vogliamo parlarvi. Si intitola Elle, ha una regia importante, quella di Paul Verhoeven, ha un cast altrettanto importante, capitanato da una straordinaria Isabelle Huppert. Sentiamo la prima clip per entrare un po' nel clima, poi ne parliamo. Mio padre mi faceva sempre un segno di croce prima di andare a scuola. Lo faceva a tutti i bambini del quartiere. Alla fine dei genitori gli hanno chiesto di smetterla. Abbastanza comprensibile. Ma mio padre, a quanto pare, l'ha presa male. Quella notte ha fatto il suo giro. Ha bussato a tutte le porte, è entrato in tutte le case del quartiere con un fucile a pompa, un grosso martello e due coltelli da cucina. Credo di averla già sentita, questa storia. Avrà sentito parlare delle 27 vittime umane, ma non si sa niente degli animali. Allora, è un milieu, diciamo, piuttosto pesante quello in cui si muove la protagonista di questo film, appunto interpretata da Isabelle Huppert, Michelle, una donna tutta d'un pezzo, proprietaria di una società di videogiochi, e una donna che come dire, si fa rispettare in maniera molto, molto forte. Quello che succede praticamente all'inizio del film è che uno sconosciuto mascherato fa irruzione in casa sua, la violenta, e se ne va, e la vita però di Michelle continua come se nulla fosse accaduto. Cioè, la reazione di Michelle è una non reazione, è una sorta di annichilimento che porta se stessa fuori da sé, lasciatemi dire. Tutto questo va avanti fino a quando l'aggressore non torna a manifestarsi, e lì la donna inizia con lui un gioco molto pericoloso di gatto col topo e cerca di tirarlo nella sua trappola, ma insieme cerca di scoprire di chi si tratti, e porta avanti nel frattempo con una normalità addirittura imbarazzante tutta la sua vita, fino a quando poi il film prende la strada che deve prendere, perché in fondo si tratta certo di un film sospeso tra dramma e commedia, ma dove la chiave del noir, del clima appunto investigativo, è spezzata solo dalla grande prestazione di Isabelle Huppert di tenere piede un film e portarlo anche in altre direzioni, di fargli fare un po' il giro dei generi, e devo dire che davvero la figura e la prestazione della Huppert in questo film è la cosa che intanto l'ha fatta candidare agli Oscar, le ha fatto prendere due candidature e vincere il premio ai Golden Globe, le ha fatto vincere anche premi in casa. Insomma, questo Elle è un film davvero particolare e di una grandissima forza, di una grandissima intensità visiva. Io Boris, e chiamo con questo Boris Sollazzo che è già in collegamento con noi, dicevo, io Boris l'ho trovato veramente uno dei rari casi di film originale che si possano avere, diciamo, dopo 120 anni di storia del cinema. Assolutamente d'accordo, e c'è da dire poi che insomma, forse non ci stupisce, l'unica cosa conformista di questo film è il fatto che la faccia di Roven, da lui ce la potevamo aspettare, insomma, perché che lo ami o che lo odi, perché di solito sono questi i sentimenti che hai verso uno dei registi, come hai detto tu, più originali ma anche più urticanti, più sghembi che il cinema moderno ci abbia regalato, è proprio questa capacità di andare oltre, di guardare oltre e di prendere tutto da un'angolazione che sicuramente in qualche modo ci disturberà. Secondo me lui porta alla massima espressione il suo modo di fare cinema, perché c'è nella figura femminile una sorta di evoluzione di Basic Instinct, che attraverso questa superdonna che appare per gran parte, o forse non gran parte, ma comunque appare in parte, ecco, come una vittima, che in realtà è molto consapevole, è molto capace di timonare la sua vita e anche ciò che le è accaduto verso quello che lei desidera, dato che insomma ci troviamo con il difficile contenuto di questo film, che ci porta a pensare che lei forse stia aspettando di nuovo il suo stupratore. Già questo vi fa capire quanto possa essere complesso l'impianto anche emotivo di questo film. Ma c'è anche Stixpil, che è l'ultimo film, quello arrivato dopo Black Book, dove c'è questo gioco grottesco con l'immaginario ma anche con la realtà, con uno stile totalmente libero a livello di drammaturgia. Forse non lo è mai stato Verhoeven in questo senso, quindi figuriamoci in generale il cinema che gli è attorno. E quello che colpisce è che Verhoeven riesce a fare due cose: riesce a spezzare, diciamo, l'arco buonista e conformista del cinema mainstream, raccontandoci una storia diversa. Riesce a prendere un'attrice estremamente codificata ormai all'interno del suo cinema d'autore, in particolare Anichiano, che da anni rischia di fare spesso o sempre lo stesso ruolo, e la rivolta, le dà una vitalità laddove di solito le davano glacialità, le dà passione laddove di solito le davano freddezza, e la fa diventare la tipica superdonna verhoeviana, che però supera anche la Sharon Stone di Basic Instinct, supera tutti i modelli femminili precedenti, perché forse per la prima volta prende in sé tutto ciò che è la consapevolezza che agli altri personaggi femminili di Verhoeven veniva negata per follia, per bipolarismo, per tanti altri motivi, o anche per una situazione storica. E è forse il più bel tributo che si poteva fare a Isabelle Huppert come attrice, per ricordarci quanto sia eclettica, perché molti la stavano codificando, ed è forse uno dei più bei film di Verhoeven, e quindi mi sembrano due ottimi motivi per andare a vedere Elle. La prossima volta suona. Questo ti eviterà di imbatterti in uno spettacolo imbarazzante come tua madre che prende un caffè con un amico. È meglio se rimetto i pantaloni. Mamma, quanto li paghi? Ma che tristezza! Non mi ferisci. Io non mi vergogno. È la mia vita sessuale. Sei una stronzetta, Michelle. Dico solo che con tutti i soldi che hai devi stare più attenta. Ti sei rifatta qualcosa? Vuoi smetterla con questa storia? Oh, scusami tanto. Solamente un piccolo botox. Affari tuoi. Elle di Paul Verhoeven, che tra l'altro ha fatto un paio di movimenti molto importanti, quello di spostare i fatti in un paese che non fossero gli Stati Uniti, anche perché nessuna attrice americana avrebbe accettato un ruolo così probabilmente, e un po' anche di cambiare il titolo da O, come si intitolava il romanzo da cui è tratto il film, a Elle, che ci dice che è proprio quella la direzione in cui dobbiamo guardare. Elle, Paul Verhoeven, Isabelle Huppert nei cinema italiani. Adesso noi cominciamo a giocare con il nostro film misterioso. Come sempre vi facciamo ascoltare un frammento di un film, indovinate di che film si tratta. Senti, conosci qualcun altro a New York? Solo te. Solo me? Ok, ceniamo insieme allora, che ne dici? Con piacere, certo. Ok. Giusto per dirvi che si tratta di un film della prima parte di questa stagione, che poi ha avuto anche una certa eco. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia, ma se avete già indovinato, scriveteci alla Rosa Purpure a @radio24.it con il titolo del film e il vostro indirizzo. Provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film. Passiamo a un altro film, un'altra proposta, si intitola Slam, tutto per una ragazza. Certo che sei di compagnia. Che palle, mamma. Solo che non capisco perché non mi risponde. Magari questa ragazza si sta facendo una doccia, oppure c'è il telefono scarico. Ti posso fare una domanda? No. Voi fate sesso? Beh, tu? Io? Cioè, vuoi sapere se ho mai fatto sesso? Sì, diciamo che è capitato, sei la risposta a questa domanda. Vabbè, comunque sono affari miei. Va bene, sono affari tuoi. Però tu lo sai che averti avuto a quell'età. Sì, è stata la cazzata della tua vita, sì. Esatto. Ecco, no, appunto. No, ma è un discorso che abbiamo fatto mille volte. Dove stai andando? Al bagno, posso? C'è ancora il confronto e scontro generazionale in questa clip, in questo film Slam, tutto per una ragazza, la storia di un ragazzo di 16 anni condivide una passione, quella per lo skateboard, con uno dei più grandi professionisti al mondo di questo di questo genere, di questo sport, e come hanno fatto tanti di noi quando erano ragazzi, di fatto parla con un poster, con qualcosa che è un idolo appeso sulle pareti della sua cameretta e che diventa un po' il suo confessore segreto. E chiaramente c'è anche il senso di un rapporto con una madre ancora giovane, interpretata da Jasmine Trinca, avete sentito appunto anche nella clip. Boris, un'incursione italiana in un genere che è molto molto americano, quello del racconto del teenager e del racconto di crescita. Allora, io dirò prima tutto quello che mi sta bene di questo film, perché secondo me è un film che può essere seminale per un certo genere, pur non essendo del tutto riuscito, anzi essendo estremamente discontinuo. Il primo è che la Indigo conferma, l'Indigo è la casa di produzione, di essere forse l'unica reale casa che ha deciso di guardare al pubblico più importante a livello numerico ed economico del cinema, cioè quello dei teenager. E quindi con il film di Cotroneo, con Salvatores, quindi il film supereroistico adolescenziale, e adesso con questo Slam, tutto per una ragazza, sta compiendo un percorso, lo sta compiendo in maniera interessante, lo compie con un regista d'autore come Andrea Molaioli, uno che non ha paura di percorrere i generi, appunto pensiamo alla Ragazza del Lago, ma anche il Gioiellino, quel tipo di dramma finanziario che poi avremmo visto più in là con La Grande Scommessa, via dicendo, e adesso decide di raccontare l'adolescenza appunto attraverso Slam, tutto per una ragazza. È molto interessante l'uso che si fa degli attori, molto all'americana, pensate a Jasmine Trinca e Luca Marinelli, che vengono tirati fuori da presunti stereotipi che potrebbero avere e vengono rinfrescati, vengono esposti in dei ruoli molto divertenti, in particolare Jasmine Trinca, che siamo abituati a vedere in un cinema comunque di riflessione, di pensiero drammatico, qui ha un personaggio molto gioioso, molto divertente. E devo dire che anche il casting fatto sui protagonisti, Ludovico Terzigni e Barbara Ramella, almeno nelle facce è positivo, forse nella recitazione è un po' acerbo. Questo per dire che secondo me è un esperimento molto interessante ed è un esperimento da ripetere, perché noi abbiamo bisogno di ricostruire un'industria all'interno del cinema italiano, e questo tipo di esperimenti, questo tipo di percorsi sono determinanti. Che cosa fa? Molaioli prende un libro di Orbi, lo mischia a uno che è Professione Skater di Tony Hawk, che in Italia è edito da Salani, li mette insieme e racconta una storia, un romanzo di formazione adolescenziale con punti onirici, una sorta di viaggi nel tempo che possono sembrare un avanti e indietro rispetto alla linea d'ombra dell'adolescenza, e cerca di raccontare quello che per esempio abbiamo visto già in Piuma, no? Quel passaggio di una maternità molto precoce che forse a questi adolescenti insomma non è così conosciuta come in passato, ma che forse serve ad aiutare per raccontare la maturità. Ne nasce un film molto discontinuo, che ha delle belle intuizioni, come per esempio il personaggio del migliore amico di lui, che è molto divertente, molto comico, un tontolone che però alla fine dice sempre le cose giuste, ad altre che sembrano davvero, tipo la lotta di classe tra i due, perché uno è di Roma Sud e l'altro è di Roma Nord, una lotta di classe troppo stereotipata. Ci sono tanti errori in questo film, ma ci sono anche tanti spunti interessanti. Questo esperimento probabilmente non è riuscito, ma valeva la pena di essere fatto. Non bisogna perdere la voglia di farli, perché ci sono tanti elementi appunto seminali che potrebbero far crescere piante più forti. E allora, cinema italiano, per chiudere la seconda parte della Rosa Purpura, adesso linea alla regia, torniamo al cinema italiano, ricominciamo col cinema italiano con Non è un paese per giovani di Veronesi, fra poco qui alla Rosa Purpura. La Rosa Purpurea. Continuiamo La Rosa Purpurea, come abbiamo annunciato, con Non è un paese per giovani, il film di Giovanni Veronesi, arrivato in sala in questo fine settimana, con Filippo Scicchitano, con Sara Serraiocco, con Sergio Rubini, Nino Frassica, un cast piuttosto variegato che racconta la storia di due persone che fanno, due ragazzi, due giovani che fanno i camerieri in un ristorante, in Italia ovviamente, ma hanno così ambizioni che vanno oltre i confini sempre più stretti, soprattutto per una certa generazione del nostro paese. Uno è figlio di un edicolante, l'altro di un giornalista, quindi, come dire, arrivano da due ambienti sociali diversi e intravedono la possibilità di un orizzonte che si allarga nella ormai mitica e forse anche un po' mitizzata Cuba. Il fatto di andare di là, il sole, il mare, le possibilità, una vita sicuramente più lenta, più scialla, per dirla, con un slang giovanile. Ma ogni mondo è paese, andando di là i due si rendono conto che forse qualche cosa può essere anche rivisto di questa vita mitizzata dall'altra parte. Per esempio, dall'altra parte troveranno ad aspettarli una giovane espatriata italiana molto molto particolare. Tu mi vuoi già bene? Non lo so, è strano, eh? Sì, perché è proprio diretta. Comunque, sì, secondo me ti vuole già bene. Perché tu sei madre. Che so io? Madre. Ci ubriachiamo? Sì, devastiamoci, cazzo. Ma che ore sono, scusa? Quasi l'una. L'una? Ma cazzo, io devo andare a lavorare. Dove vai, io? Qui, lavoro qui. Un'idea che nasce a Giovanni Veronesi da un'esperienza radiofonica, quella del famoso programma di Radio 2, RAI, trasmissione omonima, Non è un paese per giovani, che lo ha messo in contatto con una serie di esperienze, di giovani appunto che andavano fuori dai nostri confini per trovare lavoro, certo, ma anche per trovare una dimensione di vita diversa. Boris, diciamo, è molto molto frequente che un libro diventi un film, che uno spettacolo teatrale diventi un film, che un programma radiofonico diventi un film, magari un po' meno. Chissà, un giorno magari anche La Rosa Purpurea, non del Cairo, potrebbe diventare un film, quindi di personaggi ne ho anche dall'altra parte del vetro. Però detto questo Boris, è un'operazione riuscita, sicuramente particolare, ma ti chiedo, riuscita questa di Giovanni Veronesi? Ecco, secondo me sì, anche qui con tutti i suoi difetti, però c'è il germe di novità, del tentativo di fare qualcosa di diverso in un cinema che appunto magari non ascolta la radio, tra virgolette, ma anche che non ascolta le sue generazioni più giovani, cioè quei ventenni, venticinquenni che sono ormai fratelli minori di una generazione perduta, che sanno già non di dover fuggire, ma di dover proprio cominciare la loro vita adulta fuori dall'Italia. Ed è questo, insomma, il centro di quello che era Non è un paese per giovani alla radio di Veronesi, cioè il tentativo di capire che fine avesse fatto anche emotivamente la diaspora degli italiani all'estero, cioè di tutti quei ragazzi, quei giovani, quelle 100.000 persone che hanno deciso deliberatamente ogni anno di andarsene, cioè di svuotare questo paese per cercare fortuna altrove e per cercarsi probabilmente. Non è un paese per vecchi, chiaramente poi declina in maniera tipicamente veronesiana e poi soprattutto declina in una storia estremamente romanzata, quella che era uno spunto che noi vediamo sia nei titoli di testa che nei titoli di coda, dove delle piccole clip, dei video selfie raccontano varie piccole storie in poche parole. Racconta la storia di questi due ragazzi, nel più tipico, tra virgolette, menage a trois, anche se non c'è nulla di erotico, non troppo, interviene una damigella molto molto particolare che ha avuto un incidente e che è una specie di Alice nel Paese delle Meraviglie, dove le meraviglie sono poche, ma insomma le novità sono tante. Veronesi, secondo me, nella prima parte, cioè nella presentazione dei personaggi, del viaggio, delle motivazioni, un po' incespica, anche perché cade un pochino nello stereotipo, cade un pochino nel luogo comune, nel tentativo di generalizzare una generazione che invece è molto varia. Quando la storia dei tre ragazzi invece prende vita, nonostante i suoi eccessi, il Giovanni Ansaldo, che è molto bravo, che finisce per entrare in una specie di Fight Club, la storia del pescatore, che è una storia molto romantica. Diciamo che questa poi deriva romantica di Veronese è molto affascinante, molto divertente, ricordando quanto avesse iniziato cinicamente a fare il suo film. Piano piano al film vuoi sempre più bene, piano piano ti fai coinvolgere emotivamente dalla loro storia e piano piano intuisci qual è il senso profondo del film, cioè quello che bisogna conoscerla questa generazione, bisogna cercarla questa generazione, non si deve solo raccontarla, non si deve magari farne un santino o farne la vittima sacrificale. Veronesi vuole sul serio bene a questi ragazzi, non solo li vuole raccontare, ma li vuole conoscere e forse anche riconoscere. E questo è il segreto di Non è un paese per vecchi, che alla fine vuole bene ai suoi protagonisti e di fatto anche noi finiamo per voler bene a Non è un paese per vecchi, nonostante abbia i suoi difetti cinematografici, ma una freschezza creativa e narrativa che merita di essere elogiata. E allora, a proposito di Giovanni Veronesi, Boris Sollazzo lo ha intervistato partendo proprio dal titolo di questo film, Non è un paese per giovani. Allora, per chi è questo paese? Per i giovani no, il resto fai te, però i giovani se ne vanno, se ne stanno andando, quindi in realtà questo non è altro che una cronaca di quello che sta succedendo. Poi è chiaro che io mi sono concentrato sulle storie di tre ragazzi e ho fatto un film, quindi lo spunto era quello di partire da questo problema, di questo esodo di più di 120.000 ragazzi all'anno che cambiano residenza. Poi purtroppo per me, dopo i 50 anni, sono diventato romantico, non mi nascondo più, diciamo, e quindi il film è venuto romantico. Senti, questo film ha avuto due casting di fatto, quello prima radiofonico e poi quello cinematografico, ce li racconti tutti e due perché mi sembra che siano molto collegati. Dunque, quello radiofonico per me è stato più divertente perché chiaramente non dovevo scegliere soltanto i ragazzi, ma dovevo ascoltare delle storie vere e mi piaceva tantissimo sentire queste vocine in diretta a qualsiasi ora del giorno e della notte, dato il fuso dove li chiamavo. Da tutte le parti del mondo, da Tokyo, dall'Australia, da Los Angeles, dal Perù, dall'Europa, che mi dicevano: noi siamo qua perché in Italia siamo considerati un peso e qua invece, che è un paese anche meno sviluppato dell'Italia, siamo considerati una risorsa. E lì con questa spina nel fianco tutte le notti andavo a letto e dicevo: ma guarda te, se un ragazzo di 18 anni, di 20 anni deve pensare del proprio paese una cosa del genere. E in effetti poi mi sono reso conto che è vero, anche i miei nipoti se ne sono andati, siamo rimasti soli anche noi in famiglia, perché anch'io se avessi 18 anni, 20 anni me ne andrei da questo paese in questo momento. Senti, si parla tanto di cervelli in fuga, qui sembra che siano più le anime in fuga. Sì, non si tratta più di andare a fare esperienze all'estero, come dice il ministro, è meglio che se ne vadano perché vuol dire che qui non c'è, non devono starci. È un'altra cosa, se la si capisce. Bisogna anche avere dal punto di vista politico il coraggio di affrontarla. La soluzione non è così semplice, perché quelli che sono andati sono andati. Adesso si tratta di mettersi a lavorare sui ragazzi di 14 anni che cominciano il liceo e che devono uscire dal liceo convinti che questo non è un paese di sfigati, ma è un grandissimo paese e te ne accorgi quando sei all'estero. Ed era Giovanni Veronesi al microfono di Boris Sollazzo. Adesso invece ascoltiamo uno dei componenti di un cast, come abbiamo detto, molto molto variegato. Sergio Rubini, che racconta così il suo personaggio. È un padre che vive anche lui, diciamo, la crisi, perché sono un edicolante e, come voi sapete, la carta stampata non va molto più di moda, per cui sono costretto a contrabbandare ortaggi sotto i giornali, ortaggi, ma anche quelli non vanno molto più di moda se sono classici, per cui li devo spacciare per biologici e quindi li ammacco, li rompo e così, diciamo, svolto la giornata. E quindi sono particolarmente sensibile al problema della crisi e quando mio figlio mi chiede di partire, dopo un iniziale rifiuto non posso che assecondarlo, lo lascio partire e poi alla fine, diciamo, sarà mio figlio a darmi un posto di lavoro e anche io lascerò l'Italia con, diciamo, la morale qual è? Che non solo non è un paese per giovani, ma non è nemmeno un paese per vecchi. Ma siamo sicuri che non è pericolosa sta cosa, papà? Ma se no, me non per i coglioni pure te adesso, ma se non famo così, ma mi dici come campamo? Come campamo, scusa? Ma non si può fare, che non ma si può fare. Ma se può tutto, Sandro, se può tutto ormai. Ma tu che te credi? Che queste mele qua sono biologiche davvero davvero? Ma queste sciupano loro, ammaccano loro. Queste quando le buttano dall'albero, le buttano per terra, poi gli danno sopra le martellate, poi dicono sono stati gli uccelli, che sta roba è biologica, capito? C'hanno i bozzi, c'hanno i bitorzoli, la gente le vede e dice ammazza, sono brutte, forte, proprio. Sono biologiche e le paga al doppio. Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, La Rosa Purpurea per Non è un paese per giovani. Grazie anche a Boris Sollazzo che ci ha raccontato come sempre il suo parere sui film della settimana. Adesso noi giochiamo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Non hai dormito neanche stanotte. Mi conosci? Non dormo mai. Si parla di dormire, e quando si dorme? Di solito, usualmente, lo sapete anche voi, allora questo c'entra anche con il titolo di questo bel thriller molto raffinato che ha fatto parte della prima parte di questa stagione cinematografica. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo, il vostro indirizzo per poter ricevere, se siete fra i due vincitori, uno dei Blu-ray di questo film. Adesso linea nuovamente alla viabilità, fra poco torniamo insieme, parliamo prima di tutto di musical, perché arriva sul palcoscenico del Manzoni di Milano, Serial Killer per Signora, con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, che sarà con noi a fra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, quarta parte della Rosa Purpurea, il nostro sipario si apre su tutto il cinema che c'è al di là del grande schermo e incrociamo, come annunciato, un musical particolare, un musical off ma molto molto amato a Broadway, che torna in Italia a una quindicina d'anni dal suo debutto, si intitola Serial Killer per Signora. Ascoltiamo questa clip. Grazie Mistocchi, Focchi, Rocchi, Carmeia Sigrandeia. Arthur Murray, sono lieto di dare la notizia che lei ha vinto una lezione di danza gratis a cura del più presente suo aficionados. Dal 23 marzo al 9 aprile sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Milano, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia per Serial Killer per Signora di Douglas Cohen, da un racconto di William Goldman. Ed è con noi Giampiero Ingrassia, che saluto. Avete sentito anche un fischio sul nostro annuncio, perché Giampiero è in treno. Sono cose che capitano agli artisti. Non è che uno sta sempre fermo allo stesso posto. Giampiero, grazie per essere qui con noi. Allora, raccontaci un po' il tuo ruolo e anche questo musical, come dicevo, un po' particolare, partito off, molto amato, diventato, non dico mainstream, però così, insomma, abbastanza rappresentato in tutto il mondo. Sì, allora, diciamo che è un musical da camera, un musical off, come hai detto bene tu. Io lo definirei anche un musical de sé, perché è un musical fatto da quattro attori, è un noir con delle canzoni bellissime, poco note naturalmente, non è un musical di quelli con 50 ballerini, con l'orchestra, insomma è tutto molto più minimalista, ma proprio per questo secondo me va fatto in maniera ultra professionale da noi quattro. La voce che avete sentito prima era Gianluca Guidi insieme a Alice Mistroni, poi ci sono io insieme a Teresa Federico. Ecco Giampiero, raccontaci un po' il tuo personaggio, come si muove, anche quali asperità canore insomma vi porta ad affrontare questo spettacolo. Allora, io interpreto un detective, un cinquantenne, si chiama Morris Bromo, con una vita abbastanza grigia, passata dietro una scrivania più che per strada, insomma non è proprio un poliziotto di quelli alla Starsky Hutch. La sua vita viene incrociata con quella del killer, che interpreta appunto Gianluca Guidi, il figlio di una attrice morta da poco, famosissima, ed entrambi sono schiacciati dalla presenza delle loro madri, perché io vivo ancora con mia madre che mi impedisce di avere una vita mia, mi impedisce di avere un amore, eccetera, eccetera. L'unione di questi due disperati scaturirà poi in una evoluzione di vita. Il poliziotto diventerà famoso, come lo diventerà anche il killer, proprio perché uccide delle anziane signore che gli ricordano la madre. Tutto questo poi, insomma, fino a un finale che non svelo, perché essendo un noir c'è un finale a sorpresa pure. Giampiero, dacci un po' una guida dei tuoi prossimi impegni musical, perché tu sei molto molto attivo in questo campo. Ma guarda, io finisco questo con Gianluca e poi riprendiamo Taxi a due piazze, che è prosa, che è una farsa, soltanto a Roma a maggio. E quindi comunque rimani in un ambito brillante, diciamo, che è quello che ti si addice davvero tanto. Grazie al nostro ospite per averci raccontato un po' il clima di questo serial killer per signora, che lo ricordo al Teatro Manzoni di Milano fino al 9 aprile 2017. Grazie a Giampiero Ingrassia. Ok, grazie a tutti voi. E dal grande musical passiamo a due festival che chiudono i battenti proprio in queste ore, tra stasera e domani. Innanzitutto Cortina Metraggio, 12ª edizione del Festival dei Cortometraggi a Cortina d'Ampezzo, che proprio stasera vede la serata clou, quella con la premiazione e con il premio a una serata speciale dedicata a Lino Banfi ed Eleonora Giorgi, per così una sorta di omaggio del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. Questo a Cortina d'Ampezzo, mentre a Milano si sta per chiudere il Festival del Cinema Africano, ma anche dell'Asia e dell'America Latina, che ha portato nella città meneghina oltre 60 titoli in lingua originale, aperto con il bellissimo I'm Not Your Negro, e quindi stasera l'epilogo anche per questo festival. Andiamo avanti, perché dobbiamo risolvere e soprattutto dobbiamo annunciare i vincitori del game della scorsa settimana. Il mio solo rimpianto è di non saper suonare uno strumento. Io uscivo con un musicista. Davvero? Sì, un sassofonista molto bravo. Suonava i brani tristi con un tale sentimento che ti faceva piangere. Si trattava di Café Society di Woody Allen e i primi due ascoltatori ad indovinare sono stati Asia Patelli di Trescore Balneario, provincia di Bergamo, e Paolo Canazza di Saronno, provincia di Varese. A loro il Blu-ray di Café Society che Giulio San Giorgio di Film TV ci racconta così. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, siamo negli anni 30. Bobby è un newyorkese di famiglia ebrea che giunge a Hollywood. Cerca lavoro dallo zio, che è un agente cinematografico, e si innamora di Vonnie, che del suo parente è la segretaria, ma non solo. Dall'alto dei suoi 47 film, Woody Allen racconta con calma imperturbabile quello che è l'esistenza di chiunque. C'è il tumulto tra il contingente e il desiderio, il confine tra i vorrei e i posso, il gioco del destino e la responsabilità di ognuno nei confronti della scrittura e della propria vita. Su questa base ridottissima di termini, che non significa che siano termini banali, i personaggi ballano come emblemi in balia di una paraboletta, un marionette in un eterno miscasting. Guardate Allen con un distacco tenero e saggio, con l'acume stanco di un uomo che per quanto tu ti possa e debba sforzare, la risposta è sempre la stessa, ovvero che non ci sono risposte. Il Blu-ray è buonissimo e preserva la fotografia di Storaro, che per la prima volta è digitale ed è comunque nostalgica, insieme avanguardistica e museale, coerente con tutto il film. Gli extra del Blu-ray sono ridotti al red carpet e alla galleria fotografica. Diamo un'occhiata, Giulio, anche alle segnalazioni televisive, partendo da un film che è sempre un gran piacere rivedere. Su Rai 5, martedì alle 21.15 c'è Oci Ciorni di Nikita Mikhalkov. Sì, siamo all'inizio del secolo scorso. Romano è un cameriere su una nave da crociera e racconta la sua storia. Nikita Mikhalkov gira con 8,5 di Fellini negli occhi e adatta un racconto, ovvero La signora con il cagnolino, ma anche altre suggestioni tratte da Chekhov. Ne esce una deliziosa commedia di amori, menzogne, malinconia e tenerezza, un film vivace, pieno di un sano piacere del racconto, dello spettacolo, con un'interpretazione veramente strepitosa di Marcello Mastroianni, che fu premiato a Cannes. E mentre nelle sale, quest'anno molti hanno detto è stato l'anno agli Oscar di una sorta di blaxploitation, e nelle sale si può ancora vedere Il diritto di contare, ebbene andiamo indietro di qualche anno, quando nell'85 Steven Spielberg dirigeva Il colore viola. Sì, la drammatica storia di due sorelle di colore nell'America contadina, bigotta e povera di inizio Novecento, della loro traumatica infanzia e della successiva lotta per l'emancipazione sociale e sessuale. È un'America di divisioni, quella del colore viola, un film che non piacque ai bianchi, che negarono tutte le statuette dell'Accademia, degli Oscar, a fronte di ben 11 nomination, ma non piacque nemmeno agli esponenti della comunità di colore, tra cui uno sdegnato Spike Lee, che attaccavano l'autore per la presentazione offensiva, a loro avviso, della cultura afroamericana. Devo dire a torto, perché Spielberg sostituisce sempre al mondo un mondo possibile solo al cinema, melodrammatico e a suo modo infantile, ma comunque capace di parlare con questo filtro di un'innocenza violentata e sfruttata, del sesso come rapporto di potere e non solo delle condizioni dei neri nella società americana. Ovviamente non è un cinema realista, ma è comunque grande cinema. E ricordiamo l'appuntamento per Il colore viola di Spielberg su Iris alle 21 di giovedì prossimo. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Il tempo però per annunciare il film misterioso di questa settimana. Si trattava di Animali notturni di Tom Ford. Settimana prossima l'annuncio dei vincitori nella nuova puntata della Rosa Purpurea. Ci sentiamo sabato prossimo e buon cinema.